dandoci benzina. Un tipo fischiare, ha detto magari vuoi un po' di semente per gli uccellini. A parte che agli uccellini non si danno le sementine, che si soffocano se gli dai le sementine. Come stai, raggio di sole? Diciamo bene. Il barbacoa dov'è? Ha fatto bene oggi, un po' più di morale, quel cazzo. Ma mi dispiace questo. Mi dispiace. Ma quella telefonata che gli avevo detto di fare, l'ha fatta? La verità non lo so, non so niente. E oggi è entrato ed era un po' giù e non si è coricato ancora tanto bene. Mi dispiace, dai. Non lo chiamo adesso per non disturbarlo, magari gli faccio uno squillo domani mattina. Io purtroppo ero fuori, ero a Cagliari, quindi niente, non ci siamo sentiti per questo motivo. Dimmi una cosa, mi puoi dare un controllo di radio di Santiago? Guarda lo smitter, a quanto sono? Santiago 9, radio 5. Santiago 9? 9? Guardati a picchi positivi. Se sta salendo adesso? No, è normale, è positivo, 9,5. Bene così, va bene, dai. Mi senti più forte del solito o no? Sento come un motore, sottofondo, ma leggero però. No, è la ventola che raffredda il trasformatore. E se solo? Scusa? E se solo? Perché ancora non è entrato nessuno? Ma mi sa che a quest'ora è troppo tardino, Vino, mi sembra anche presto. Sentivo questo uccellino, ho detto, ma che strano, ho detto, ma la fame, aspetta che gli do un po' di semini. Hai semini? Poi? Manda semini. Da qui ti li lancio, dalla finestra? Butta. No, non ti arriveranno mai, guarda. Come sono, dolci o salati? Dipende da come li vuoi tu, ci sono dolci, salati, amari, dolciastri, come vuoi tu? Però dolci. Che sei, non rispondi subito, devi rispondere subito, devi essere schietto, stai a pensare perché pensi? Penso, io volevo il dolce, dolce, facciamo dolci. Bene, il dolce, alla prossima volta allora ti faccio un dolce, non ti faccio i semini, ti faccio il dolce e te lo spedisco. Cosa sai fare bene? Allora, io non è che me la cavicchio tanto con i dolci, però dipende, se mi ci metto al palato faccio a piacere a chi gusta. K Roger, aspetta un attimino. Guarda un attimino se è cambiata la cosa, se mi senti un attimino meglio. Ola. È un 9 e mezzo, è un 5. Cioè adesso da 9 è salito a 9 e mezzo? È un 9 e mezzo e un 10. Negativo, non mi stai dando un controllo affidabile. Non ti devi mai fidare delle donne. 9 e mezzo o 9 e 10? Non ho capito. 9 e mezzo sui 5 e 10. Non esiste quello che mi stai dicendo. Cosa vuol dire 9 e mezzo sui 5 e 10? E 9 è cosa? 9 più? 9 più? Allora, 9... Io sai che non me ne intendo di apparati, giusto? Sono una novellina. Tu arrivi 9 e mezzo, sotto c'è 10. Non lo guardare il 10 che non c'entra niente, guarda solamente su cosa c'è scritto, 9 e mezzo. Fatto positivo, 9 e mezzo. Pernacchia che fai quando molli cos'è? So, perché fa una pernacchietta? Sì, una pernacchia fa, no, una pernacchietta. Ma sì, nato, tutto a posto, cos'è? Ciao. Patrizia, buonasera. Passerà anche a lei. Guarda, così se la fa la pernacchietta lo stesso? Sempre la fa. Ma può essere secondo te? Il relè, cosa può essere? Più che relè non è. All'anticipo del relè, il delay? Non sei in accordo sicuramente. Il relè non deve gracchiare quando molli. Deve essere bello schietto. Aspetta un attimino, è possibile che abbia stazionaria? Guarda così. ti fidare se sei col rettore quando conduci quelle cose, anche è pericoloso. Fatti Roger, guarda come sto uscendo adesso. Sempre ho fatto. Non è possibile che lo faccia attaccato, cosa fa? Fa anche adesso. Questo mio vicino deve dirgli cosa sta facendo. Ma l'hai già portato su, lo stai provando. Appa. Non ti fidare se sta con l'attore. Se parte sicuro da lì te ne straccia il coperchio. È normale che si abbassi la luce in modulazione. Vedi che perché? Hai già scoperto il problema, sei sopravvimentato. Sei sopravvimentato. C'è qualcosa che non va. Ti si abbassa la luce della radio o dell'amplificatore? Dell'amplificatore. Come avevo il dubbio al telefono, si è subito verificato. Quello assorbimento della notifica, evidentemente l'assorbimento non è giusto. Quindi qual è il problema? Per modificare, bisogna vedere se c'è qualche valvola in corto, se c'è il trasformatore che non va bene, bisogna vederlo. Non è che si fa tappa e si attacca molto. Quando si parla di valvole bisogna andare sempre lì, molta attenzione, che sono pericolose. Perché? Che possono scoppiare, perché? Ascolta, adesso ho staccato, cioè ha acceso però è staccato il stand by, diciamo, quindi è come se non lo stessi usando. Ma vedi, lo stai agganciando perché si sente. Da un attimo, adesso stacco proprio tutto, sto facendo raffreddare il tutto, adesso lo stacco. Rimanere dei tempi di attesa fermo o no? Se lo stacchi non lo usi, no. Se lo devi usare, devi accendere o lasciarlo in stand by. Quando le valvole hanno caricato la nudica, allora puoi andare in trasmissione. Fai di Roger, guarda se lo fa anche adesso. Sì, non farò fare. Oppure mi sembra... aspetta un attimo. Che microfono è già? È il top molto basso, Molto basso mi stai arrivando, ciao, non c'è. Mi senti, Pinocchietto? Perché sono senza niente. Certo, il microfono stai usando, prima lo facevi questo rumore. Cosa? Un normalissimo microfono da mic. Sempre quel coso lì, quel cicafuso che usi in macchina. Il cicafuso della macchina. Dove andare a essere obietti? Metti una radio seria lì. Povero. Sì, povero la nonna. Quando è morto l'hanno decimato le labbra e te l'hanno lasciato mutande. Era il nonno mio che quando è morto l'hanno messo al culo per aria e ci hanno fatto un parcheggio di bicicletta. E anche nel mio. Nel mio invece ha girato al contrario e ci hanno fatto la bella cucane. Qual era forte il nonno? Avanti. Raggio di sole. Il mio nonno non lo so come l'hanno messo perché non l'ho conosciuto purtroppo. Ha intristito il tutto. Ci siamo intristiti. Sentimi un attimino, come ti torna questo raggio di sole? La differenza c'è, guarda su, leggi su cosa vedi, 9? Erano su 9, sempre su con questo racchiamento che hai. Non è una bella ripresa oggi. Cioè gracchia. Sì. Sarà quel microfono che stai usando. Dopo, ola. E fa alla fine un rumore strano. Non è un problema quello. La differenza te lo sta facendo quel rumore tac tac tac tac tac, un amplificatore. Ma domani domani lo vediamo, dai. Voi, eh. Non c'è problema. Non c'è problema, tanto fa un po' sangue tutta la mano. Ma sono stato morto. Non avevo un po' di tv. E poi non vado a policiarmi. Però io mi prendo anche un antinfiammatorio perché sono davvero crippato. Però sto aspettando 10 e mezzo per prenderlo anche io. Anch'io lo devo prendere. A pranzo non l'ho preso perché non sono venuto a pranzo. Quindi. Va bene. Uia, uia, uia. Tanto meglio già coricato, sì. Sì, ho già raccoricato. È entrato ed era un po' giù e quindi si è coricato. Si reagisce comunque, te l'ho già detto, al telefono, lo dico anche qua. Sì, lo so, ma non tutti siamo uguali purtroppo, ognuno reagisce diversamente a modo suo. Meno male che non siamo, meno male che non siamo purtroppo, ma non ci vedi a me come Claudio. Sento io, perché preferisci sempre a me. Che la signorina ha detto purtroppo non siamo tutti uguali. Io ho detto meno male che non siamo tutti uguali. Ma guarda, lo so che non siamo tutti uguali, ognuno guarda quello che fa, quello che può. Io qui ho lasciato molto attaccato al lavoro, soltanto sono arrivato al davanti degli altri. E quindi Patrizia, non tutti siamo uguali. Ciao ragazzi, adesso lo apro, lo sai. Non sapendo cosa fare, sperando che non mi partano qualche cosa in faccia. Lascialo stare, lascia stare, ci sono i condensatori carichi. Tu stai giocando col fuoco, non si vede che non hai mai avuto quella roba. Quello te lo puoi aprire domani, quando i condensatori sono scarichi. Niente, da una schicchiata di corrente che ti trovano la ginara. Basta passarci un cacciavite nei circuiti prima. Fai la bravo, ti ho detto, puoi fare quello che ti piace. Non giocare con le valvole, ti ho detto, non stai giocando con i transistor. E poi mi sta dettando tutti i piedi una volta quella. I piedi dei capelli si addrizzano, hai visto? E quello è il problema, che se ci mette quello sul treno non filminato li sbattono tutti i capelli. Capelli dritti li diventa. Sì. Gioca, guarda io è dal 1002, non ho prestato la roba, sono quello molto negli anni 80, ho preso una scarica un giorno, dopo che mi taglia il braccio. Aspetta, comunque non erano quelle che mi stavi dicendo tu le valvole, erano diverse. Non sono le 509. Non mi ha detto le 509, mi ha detto DF422. Vai e corre, vai. Quando parlo apri le orecchie. Quando la monta, monta le EL509 o le PL519. E boom, ce ne sono altre, vanno bene con l'amplificatore. La cosa mi dai dati pomponi, MRF422. NRF a correre a sognare. Quando uno parla deve dire le cose se le sa, se non le sa le stare dritto. Ti dico vita miracoli di quello, capito? Quando monta quelle valvole blu, gli altri sono le quelle corrispettive. Praticamente quando non trovi le 519, le 509 le monti quelle, però non hanno la stessa nubica. Se una è da 50 watt e l'altra è da 25. Non mi dici stravaganti, stravaganti. Non sono stravaganti, ne sono un bel. Ti avevi un difetto l'anno scorso, che era dei cosmosi. Modesto, però quest'anno ti avete passato il tuo. C'è un bel, quando si parla di radio e di lineari, ma c'è un bel, capito? Gli altri sono solo noia, sono cazzate, dico. È un bel amplificatore quello, però dalle delle lettere, non le dare mai del tu. Non sei ancora pronto per io gli do sempre del lei, perché è una persona molto fiduciosa di me, mi può imparare tantissime cose. Poi non so se a te ti posso dare del tuo o del lei, dipende, però il Signore logicamente gli do del lei per rispetto, perché non lo conosco, e quindi per rispetto gli do del lei. Una persona anziana, giusto, può dare tranquillamente del tuo. Col suo permesso le posso dare il suo? Assolutamente sì, vada tranquilla, col permesso e col consenso anche di suo marito, ci mancherebbe. Nel consenso di mio marito non c'è bisogno, se lei mi dà il consenso suo, se non posso, però se il signor Salviero così è. Non mi dice che non le posso dare del tuo perché è una persona molto più adulta di me, posso imparare, allora gli darò sempre del lei e lo rispetterò. Cosa è finita con queste storie del lei? In radio ci diamo tutti del tu. Tutti del tu ci dobbiamo dare in radio, perché la prassi è quella, quindi che uno sia anziano, che uno sia giovane, non ha nessun significato. Quindi Patrizia, a me puoi dare tu tranquillamente senza nessun problema, perché così dice la legge. Allora lo posso chiamare zio Claudio, posso permettermi almeno zio Claudio? Sì, si chiama zio Claudio, io Sparviero, madame del tu siamo diventato ancora più vecchio, già mi sono uscendo i capelli bianchi. Sempre col tuo permesso, non suo. Il mio permesso è che io mi chiamo Claudio Bu, tu sei Patrizia e Cogia, che qua si chiama Antonio, basta, vero Cogia? Cogia, sì, sentimi un attimino, ma io te lo posso dare del tuo a chiamarti nonno Claudio? Certo che sì, tu hai tutti i consensi e tutti gli attributi, non c'è nessun problema, nonno di Vegliali. Uiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai La Jürgen Primer. Dimmi invece com'è andata questa trasferta, hai visto queste frecce tricolori, ti sei divertito o continui ad andare fuori per mangiare la legittima che ti ha fatto? Negativo, devi sapere che è meglio non prendere il discorso perché per l'ennesima volta ho convinto Pollicina a non andare a vederle, perché avremmo dovuto fare prima Olbia e poi scendere giù a Cagliari per fare il tagliando di questa macchina. Quindi l'ho convinta, non ci sarà una prossima volta, detto, però l'ho convinta che il 4, the 4 of the September, the free color Arrow is in Cagliari City. L'hai chiesto a lei, come si dice, Freccia, hai visto che non lo sapevi, ti ho detto qualche giorno, vedrai tu che nello scrivere, no? E poi sei un grandissimo terremoto perché mi hai fatto sbagliare tu, mi hai fatto scrivere Beast invece di Best, e quindi la colpa è tua. Perché secondo me Bestia è più masculo di migliore, cioè il migliore di che cosa? Il migliore di cosa? Invece la bestia è più cattivo, sa? A parte che lo spardiero lo è, né più nemmeno come il grotte, qualcosa di cattivo, capito? Lo so. Allora io, Patrick, ma cosa devo sopportare io? Allora dimmi tu cosa dobbiamo sopportare noi, ma ti ne rendi conto che si vanta e si sbroda da solo? Ma è da proprio così, Patrick. È così. Lui deve essere sempre così, perché altrimenti sarebbe un vero disastro. Dal basso, capito? Perché parli sempre sopra Patrizia? Intanto non puoi sovramodulare. Cosa hai detto? Il connubio migliore è il dualismo tra chi domina dall'alto e chi invece agisce dal basso, capito? Che romantico che sei. Ma chi era già letto? Va cadente, sensuale, no, io sono, e lei sta preparando, io sto già mangiando il riso in bianco perché abbiamo mangiato troppo, tra pizze, vini e tirriaga che mi hanno offerto a casa di una persona che non ti dico il nome, e altre cose, alla fine ho la stomaca di giù. No, l'hai portato tu, Vito. Sei una vergogna, meno male che ha ripreso tua figlia, Oia. Si è ripreso. E anche dopo io ho gustato quel vino veramente buono, che è quello che mi ha fatto Antonello, veramente un vino eccezionale, infatti quando lo sento andiamo a prenderlo quel vino, ci ha fatto assaggiare Antonello, buonissimo. Ma quell'altro, l'Angherurugno, quello è la dolce, andava meglio quello bianco, no? Solo io ho detto, ha fatto il ceccio in testa. Ha fatto il ceccio in testa, ma ti porto un vino da riflessione, come può essere un porto, e tu ci fai la cosa, la sangria, ma quando mai? Poi, a meno male che, ti ripeto, hai una figlia che è quella che è, meno male, e un po' di educazione te la dà. Ah, perché con anche lui io mi sono fatto la pesca, dai, è buona. Allora guarda, ho ripetuto anche io già a pranzo. Mezza pesca con l'angelo ruvio, sai, è buona, è dolciastra. Dai, vabbè, la prossima volta ci andiamo a cena fuori un altro giorno, mi conviene fare così, intanto poi vedi. Succede che stai sempre criticando, e allora non va bene. Sì, hai capito, l'ha portato lui il vino, lo sta criticando, solo perché mi ha fatto la pesca con l'angelo buio. Ah, lui ha portato il vino a casa sua? A casa mia, non sua, a casa mia, è venuto a trovarmi e ha portato un bottiglia di vino. E siamo davanti qua a cena e lei sta criticando il vino che ha portato lui solo perché io mi ho fatto la pesca, no? Io metto la pesca col vino. Ha detto non andava bene col vino. Eccezionale, tu non hai la pesca col vino. Ah, aspetta, la pesca la può mettere in quella tirriaca che gli porta tuo marito, ma io gli ho portato il porto e mi ha fatto porto, dove usa il porto? Foglia di tiro, ma ti rendi conto, si è fatto la pesca nel porto, boh. Cioè come domani gli porto lo champagne e ci si sa quei piedi o ci fai gargarismo. Ui. Beh, scusami, ognuno con quello che beve ci fa quello che vuole, tu che ci fai con quello che bevi? No, devo dire la verità, però è sincero, è la classica persona che non si fa, fuorviare dall'etichetta. Vuol dire che guarda dentro le cose e non si fa, non è un'esteta, nel senso che non guarda, non giudica le cose dal lato esteriore, questo le fa onore. Ecco, allora lui col vino ci ha messo la pesca, cioè, gli è piaciuto così, bene, era buono. Buonissimo, infatti, buonissimo. Ho ripetuto anche io già pranzo, ma un goccettino. Solo che adesso mi ho lasciato la metà e quello facciamo la sangria. Tanto va bene, no? Mettiamo dentro le pesche, il melone e poi ce lo ciulliamo tutto. Immaginate che la sangria si fa col vino più bodrancio che si trova. Io mi ricordo al villaggio turistico dove frequentavo si prendeva la sindria, l'anguria, si svuotava con un cucchiaio, quindi si lasciava il contenitore e poi si riempiva di vino e di qualcosa di superalcolico e dopodiché dentro infetti a buttare di anguria. Vabbè, ma siccome c'è anche la pesca, l'uva, tutto ci può buttare dentro. Beh, su questo te ne do atto, perché usare un angolorugno o un porto per fare la sangria sarebbe da uccidersi, anche perché sono dei vini costosi, quindi non va bene. E infatti chi fa la sangria usa del vino proprio di su fiacco barato, capite? Perché poi il vero gusto glielo dà tutto il procedimento che c'è all'interno. Bene, vabbè, lo faremo col cerchio rosso, ti va bene? Guarda, va bene, va meglio, meno male che c'è quella ragazza, c'erano anche le quotazioni, mi ha fatto fare anche una brutta figura perché ha detto boom, subito il prezzo. E vabbè, ma non è, ti ripeto, secondo me i gusti poi sono soggettivi, capito? Cioè quello che può piacere a te non può piacere a un'altra persona e viceversa. Il bello dei gusti, si dice de gustibus. E gustibus che c'è, dumme. Mamma mia, che caldo che ha. È tutto aperto qua, non sta girando un filo d'aria. E c'è questo computer, mi sta uccidendo, adesso andiamo spengo. Lei la lascio acceso, che l'aria deve vedere delle foto, me ammazzendo. Avanti, proprio riprendi. Sbaglio al signor Antonio, giusto? Abbiamo detto un mondo vario e siamo tutti diversi, perché sennò sarebbe stata la distruzione umana. Male, perché così si apprezza ancora di più la mia superiorità, capito? Eccolo là, lui subito, si vanta e si sdroga. Non rispondi più, ti sei offeso. Era un complimento comunque, Ma grosse, no, quello sempre che non ti risponde, infatti qui c'ha la bocca piena, sta mangiando. Educazione però, parlare con una signora con la bocca piena. Non era a bocca piena, ma era, gli volevo dare un tono, stavo facendo la voce grossa. Sto mangiando. E chi è? Non lo senti che è la torre di controllo? Sto mangiando, stai, come diceva Paperina, mangiando sto. Ciao Chiara, non gliene dare di San Bianco, dare un po' di brodino. Mangia. C'è la bocca piena, non può rispondere. Mangia 24 ore su 24, Paperi, sta sempre masticando. Qualche giorno addormentata ne mangia la testa. Dice che lui pensa la linea, mi sa che è peggio di me. Io come fa a mangiare 24 ore su 24? Manca quando dorme e mangia questo. Chi le fa anche donna a mangiare? I migliori ristoranti, tutte le cose chicche, capite? Sta sempre masticando, lui deve masticare perché altrimenti non mantiene la linea poi. Ah, male, deve stare a casa e cucinare lui stesso, con le sue mani, deve imparare a cucinare, perché chi lo sposa poi deve sapere con chi va incontro, non deve stare sempre al ristorante, deve fare anche belle impressioni con le donne, deve saper cucinare, deve far piacere alla donna, all'uomo che cucina. Guarda, io c'è una cosa che so fare con le donne che è la cosa migliore in questo mondo, che lo immaginerete, che è levarmi dai piedi e andare. È la cosa più piacevole che so fare. E ce ne siamo accorti. Il problema è che mi hanno sempre tra i piedi, capito? Il problema è quello, perché non so cucinare. Facendo, non parliamo di fare sesso perché sono una frana allo stato puro. E dopodiché cosa tutt'altro non fa? Lei è una croce rossina, sta facendo del bene, sta facendo volontariato. E vabbè. Guarda, ma c'è la tua compagna vicino a te, vi posso chiedere una cosa se è possibile? Compagna non mi si addice per una questione di colore politico, comunque sia, se te la passo. Bene, avanti Patrizia, intanto ne approfitto per salutarti, non so chi altro ci sia, rotto il Claudio, saluto tutti, dimmi pure Patrizia. Ciao Felicina, ascoltami, ha detto una cosa che non doveva dire, è bravo o non bravo a far sesso, ha detto che non è giusto dirlo questo, perché se non è buono a far niente, almeno quello deve fare, giusto? Guarda, tutto quello che ha detto è vero, non posso purtroppo che confermare. Ma non vuole fare niente. Però sono, devo dire la verità, sono un velocista, nel senso che io faccio sesso in... Ma entrando alla porta, suonando la campanella di giù. Cioè no, tre minuti durerò suonando da giù. Cronometrato, 3 minuti e sono soddisfatto, la cosa più bella del mondo. come conigli praticamente, senza nessuna passione, senza nessun sentimento. I conigli sono così. Perché ci va messo anche quello? Cos'è questa cosa? Si mangia? Sentimento. Il sentimento è una cosa che prova la coppia reciproca quando si fa quello che tu hai detto prima, poc'anzi, scusami. E quindi è normale che tra i due ci sia qualcosa di l'attrazione fisica, il sentimento soprattutto. Ed essere tutt'uno quando si fa un determinato 5 minuti, come dici tu. No, infatti devo ammettere, cioè io non l'ho voluto smentire perché sembrava brutto smentirlo, però come si dice, lui dice ma per pigrizia, perché in realtà sa cucinare, sa fare tante altre cose che per comodità dice di non saperle fare. Ah, quindi dice le bugie per non dire la verità, diciamo. Far scoprire la verità, se no sarebbe costretto a metterlo in pratica tutti i giorni. Ma poi diventa, tutti i giorni diventa noioso la verità. A parte cucinare che bello, perché se lo fa l'uomo alla donna, tutti i giorni, non dico tutti i giorni, però se lo fa, cucina con una donna è bello, è piacevole, è una cosa bella. Però, come dice lui, 3 minuti tutti i giorni, no. Lo sai che fanfarrone, ormai dovresti conoscerlo. Ne approfitto per dire una cosa a Claudio, per chiedere io scusa a Claudio. Dimmi, cara Chiara, lascialo perdere, Patrizia. Sì, infatti, ormai dovresti averlo capito che va mollato. Intanto volevo dirti che mi sei mancato, perché nel viaggio di ritorno da Bonorba in poi ho cominciato a chiamare torre di controllo, ma tu non c'eri. Ehi, sono arrivato alle 9:08, le ho detto Antonio. Altrimenti ti avrei accompagnato fino a casa, a quella zona, non ho problemi. Però ero impegnato al lavoro, perché questa settimana ho delle chiusure urgentissime da fare. Onde evitare che poi, quando vado in ferie, continuano a chiamarmi al telefono. E quindi voglio concludere tutte le cose. Senti, arrivate l'aria adesso dal lavoro e quindi si inizia un po' di balduria qua. Capisco, salutamela tanto, e anche Anna, che non ho sentito tra le voci se ci fosse anche lei, ma immagino di sì. Ci sono nel salone e discuto, magari non arriva, racconta tutto la mamma, quello che è successo, quanti ragazzi belli ha visto, quanti brutti. Capito, ormai è una routine quotidiana, questo. Vuoi se non ci fosse? No, volevo dirti, sentivo poco fa che vi stavate punzecchiando su, per quanto riguardava il gusto del vino. Devo dire la verità, è colpa mia, perché ho insistito io affinché portassimo l'Angheruruio, che garisco molto. Forse andava magari gustato non passeggiando ma a fine pasto, però mi rendo conto che è un gusto particolare, molto forte, magari non è gradito a tutti. Ah, vai, stavo scherzando, non ce n'è più, è già gradito, lascialo cantare. Lui punzecchia, io rispondo, chiaro, ma ti pare che è che la verità si dica, io stanchissimo. E quindi non è che avessi molta voglia di bere, però l'ho gustato tranquillamente. E oggi a pranzo, che non sono, praticamente non c'ero, però poc'anzi a cena, ho rifatto lo stesso gioco, anche se a lui non piace, una mezza pesca, e accompagnato dall'Angheruruio e via giù, così mi addormento prima. E allora sono contenta che sia andata in questo modo. Noi siamo tornati, dicevo, stasera da Cagliari, quindi non ho avuto modo di preparare quella cosa per Ilaria, che assolutamente entro domani sarà fatta, quindi mi metterò poi in contatto con lei per dartene intanto una copia con la foto, e provvederò, se Ilaria me lo consente, a inviare qualcosa io, se trovo qualcosa di interessante. sì, avete già parlato, quindi è già tutto nelle tue mani, vedi tu. Sì, c'è Chiara, saluta, vieni qua. Ciao, vado a mangiare, c'è una come da lupi. Quanto è stato il pane al McDonald's? No, le trovo a mangiare. Com'è quella canzone? Ah, ah, ah, il McDonald's lo mangi tu. Non è esattamente, Ilaria non la dice esattamente così, però diciamo che ci siamo, ci siamo. Comunque un saluto anche da Anna, che sta preparando la cena e la dieta. Patrizia, anzi Chiara, te il microfono, vai davanti alla tua Patrizia. Con vero piacere, raggio di sole, non mi abbandonare, raccontami qualcosa. No, io non ti abbandono, ti ascoltavo, mi piaceva che stavo ascoltando la tua voce con il Signore, mi perdoni, mi riesce sempre per educazione. Ma niente, volevo ti racconti una giornata calda, io sono in casa, mio marito è già a letto da quando è entrato, un po' giù però, niente di che, ognuno la sentiamo diversamente la giornata. Lo avete ritmi sicuramente diversi. Comunque non sbaglia a chiamare lo sparviero Signore, perché è un Signore. Sì, però lui mi ha richiesto di darle del tu, io con il suo contesto gli do il tu, però certe volte mi dimentico il nome o come chiamare, allora gli do del Signore logicamente, perché non lo conosco, non mi conosce, quindi per educazione, come faccio con tutti, do sempre del tu. Lei stavo non so se hai notato che Chiara ha il naso lungo e le gambe corte. Guarda, io ti dico una cosa, tu puoi parlare di mille cose, affrontare mille discorsi, punzecchiare a tutti, ma non punzecchiare a Chiara, perché se tu avessi la minima parte di tutto quello che ha Chiara, saresti, guarda, il re di tutto. Se avessi una minima parte, sarebbe un mezzo proscio, ma va bene. Nessuno ti ha detto questo, però tu parla di altro, lascia stare a Chiara, non è. Punto. Non ho niente da aggiungere. Patrizia, il mio nome è Claudio, come Claudio Baglioni, Claudio Villa, Claudio Cecchetto. Ilà, meno male che c'è qualcuno che ride lì. Oh, Ilà, tieni la bada a tuo babbo. Guarda, non dico niente, anche perché stasera sono mezzo fuso mentalmente, quindi non ho un grande discorso, però mi hai già capito. Se no ti canto la canzone. Perché ti sei fatto la sangria col porto, vai puzza. Per chi porta la porta è aperta, per chi non porta la porta è aperta e parte. Infatti la porta era chiusa e tu hai suonato con le mani, non hai suonato con i piedi, solo Chiara ha suonato con i piedi. Non lo sai che io ho suonato 5 anni al conservatorio di Sassari, non mi hanno mai aperto, però adesso ho capito perché sei mezzo suonato. Avanti Patrizia. E infatti sono anch'io per dire la stessa cosa, quando non l'hanno mai aperto. Beh, non mi hanno mai aperto, perché evidentemente non sapevo suonare bene, evidentemente. E che cantare allora? In questura. Canta qualche te, no, guarda, non cantare, ti prego. Già ci ho piedi a terra, non cantare. C'è qualcuno sotto, prova, là, mi sembra di sentire qualcuno. No, io non sento nessuno, 070 stasera, boh. Non so se la radio è molto silenziosa, sto 4:40, è un po' così, rispetto agli altri è molto più silenzioso, non c'è un filo di QRM, niente. Cos'è che, perché si sta accendendo la disputa nel QRA? Sempre a quest'ora c'è la rissa. Perché Anna ti parisce sempre a Ilaria quello che deve fare domani, no? E quindi Ilaria ti sia il fatto che lei è abituata a fare sempre quello che vuole, quindi da lì partono, iniziano a partire le prime scintille, i primi fuochi d'artificio. La notte è tardi, dopo? Sì, sempre a quest'ora, sempre, a pranzo oppure a cena, cioè quando Ilaria arriva allora iniziano i discorsi. Ma domani, no, non c'è andare, non lo fare, no, domani mi devo comprare quello, no, lasciati stare subito in banca, non toccare niente, no. Cioè deve essere sempre, come dice lei, quindi quella tan. Io devo dire la verità, ti invidio una sola cosa oltre ai capelli, e cioè l'armonia che c'è all'interno della famiglia, nel senso armonia intesa come accordo fra le parti, nel senso che si vede che siete armonici, né più né meno come la famiglia Barracuda, però diciamo che ancora la bambina non ha l'età per essere amica dei genitori, però si vede che un domani lo sarà. Sì, ti rispondo subito. Guarda, io con mia figlia e con mio marito c'è un bellissimo rapporto, non ci nascondiamo niente, insieme io che mio marito e che mia figlia. Mia figlia ha 10 anni, però ti dico che io con mia figlia parlo su tutto di lei, mi racconto le sue amicizie, le sue prime, diciamo, cose che si prendono a scuola, mi racconta tutto quanto. C'è un bellissimo rapporto col padre, niente da dire, anzi sono contentissima. E ti dico che questo rapporto ce l'abbiamo creato con tanta fatica e con tanto amore, diciamo, però più va avanti e più forte sarà, secondo me. Non la far diventare troppo forte, sennò diventa come la figlia di Sparviero che comanda lei in famiglia. Non penso che sia così, ma è bello avere un rapporto così con i genitori, una figlia con una madre, esprimersi e rapportarsi nei propri argomenti è bello, come ad esempio Antonella ha un rapporto bellissimo con Paola, comunicano, parlano, discutono, bisticciano, non se vanno né padre né figlia. Poi il bello di Ilaria, questa ragazza, è che fa credere al padre che è lui che comanda. Ma chi gli porta i pantaloni, scusa, la figlia? No, non c'entra, sono entrambi in merito a questo, però c'è un ultimo rapporto, si vede. Un ultimo sodalizio. Chissà, ci acconsente. Il controllo si è spento. Ui. Audio. Sparviero. Alla luce. Questo è un calo di potenza. Riprenda il raggio di sole. Riprenda raggio di sole. No, io mi chiamo Patrizia. Bello, infatti, anche qua Policina dice così bello raggio di sole. Davvero non ti piace? Sì che mi piace, ma se ci diamo del tu, preferisco anche che mi si chiami anche per nome. No, riprenda raggio di sole. Riprenda raggio di sole. Riprendi raggio di sole. Riprendete, voi un plurale maiestatis. Scusa, non ho capito ciò che volevi dire perché il mio cane ha abbaiato in questo momento, quindi non ti ho... Eccoli, non ti ho sentito. Preferisci il maiestatis? Scusa, spiegami, io parlo l'italiano, spero di parlare l'italiano e di esprimermi in un modo non tanto corretto, però dico che... la gente quando parlo mi capisca, però io certe volte non capisco te, cosa hai detto? Dimmelo in italiano. Maiestatis è tedesco. Maiestatis. Si impara la parola, va? In poche parole significa mai è stato, quindi non essendo stato mai, diciamo che non ha un articolo definito. Il lolai di è. Buonasera. Voi, se non sbaglio, Salvatore, no? Buonasera. Buonasera, ben sentito, domani ascoltato, 7351 da questa parte, Antonio Grotte. Avanti. Sai che ce l'ha tutti. E anche quello è bellino. Luca, perché stai entrando in questa voce? Come sto entrando? Da ciò perché... Ah, ecco. Facciamo il processo da scritto. Buonasera a tutti, Luca qua. Buonasera. Grazie. Normalmente mi faccio una bella inclusa fresca, no? Capito? Non mi parlare sopra però, Sta bravo. Vai, mi sta arrivando a questi casi. fare barra amplificati, non amplificati, è roba di potenza. Ui ui ui. Il Claudio, chiama il Claudio. Ciao Claudio, ciao, che sono Patrizia, buonasera anche a lei. Buonasera anche a te, ma non mi dare della signora perché non voglio, chiamami per nome Patrizia, mi fa più piacere. Vabbè, siccome non ti conosco, anzi non la conosco, meglio di lei, no? Sicuramente non voglio sapere la sua età, ma sicuramente siamo coetanei, dai. Io ti do, sto dando il permesso di darmi il tu, chiamami per nome, così non ci siamo, non stiamo lì a litigare per nessuna cosa. Patrizia. No, litighiamo, ci mancherebbe. Non c'è problema, va bene Patrizia, va bene. Io mi chiamo Luca, nome mio di battesimo. E niente, no, avanti Claudio, ma ci sei Claudio. Mi chiamo Claudio Baglioni, è inutile mi chiamate Claudio Villa. Ma non so perché ha Claudio Villa. Ho già detto così. Canta una canzone Claudio Baglioni, per favore, me la dedica. Sì, non sono degno di te. Veramente rimorandi, ma va bene così. Ma chi è che sta cantando per me? Non capisco niente. Allora, mi chiamo Luca, guardate Claudio. Non penso che abbiamo la stessa modulazione. Di aggiunta. Secondo il bianco per me. Andando a fare l'arbitro, mi stanno a separare. A casa di Luca, ah ecco, tu sei famoso ragazzo di l'altro giorno che ho detto, a casa di Luca. Sì, io, sì, sono mangiato. Ma tu, io non lo sto mangiando, tu sicuramente non te lo puoi permettere. Ma non perché sia una cosa che non te puoi comprare, attenzione, una cosa che mai non riesci a digerire. Prego. Ho capito cosa hai detto, siamo qua in due, te l'abbiamo detto in telefonia, cosa hai detto? Era biazzuto, nel senso ti sarebbe piaciuto di sapere la modulazione di Claudio. Vai avanti, spiegami perché non capisco niente. No, ho detto a Patrizia che non capiva niente chi stava parlando, che stava cantando, boh, una cosa del genere. Io gli ho risposto che non abbiamo la stessa modulazione con Claudio, c'è un abisso tra me e lui. Tutto qua, non ho detto niente. A te ti ho detto, mi rovina cosa sto mangiando. C'è una cosa che ti puoi permettere ovviamente, ma non so se riesci a digerirla. Prego. Guarda, io credo che tu sei un masticabrodo, però cosa stai mangiando? Ora come ora a me sarebbe piaciuto un piatto di monzette condite con l'aglio, il prezzemolo e il pane grattugiato, oppure un piatto di zimino, ma quello lì è fantasia. Masticabrodo. Prego. Mi piace, no, vabbè, ma te lo dico, giusto, cipolle e ketchup. Carizzare, ma c'hai ragione, guarda, non riesco, l'ultima volta che ho fatto lo stravagante a Cagliari, che sono andato da un panino, come si chiama, da un cadozzone, quelli che hanno il panino furgone, minchia, non ho dormito fino alle 5, Scusa. Facciamo un po'. Questo è fatto da me, ma lì diciamo questi panini qua che fanno loro, ci cade il sudore sopra, qualche pelo, no, meglio niente. Scusate l'interruzione, però sentire le tue cipolle non è che ci piace tanto sentire le tue cipolle dentro la bocca che fanno cri, che stai a parlare e masticare cipolle. No, Patrizia, c'è una finanza di un pezzo di giuste, dai, sto qua. No, sono buoni, poi altro. È una bella inclusa, un bel peroncino fresco. Se ti interessa c'è la... come si chiama? C'è un'offerta lì alla piazzetta. Quanto sono? Allora, sì, peroncini, 3,30 €. Sì, no, sarebbero 50 centesimi. Eppure guarda, non è. Vabbè, non ti dico. Perché ci sono le 3, ne da 33, ma per uni o 3? 3 X. chiusa tu, la roba nostra. Però questa cosa è roba nostra, va bene. Però guarda, le birre invece buone le si comprano anche alla Lidl o all'ED. Da LD c'erano le birre speciali che costavano davvero poco. Vabbè, se non mi parla, tu che tu mi fai, mi dici delle birre, io ho un po' di Austin, io però è tedesca, però bevo, però mi cambi di chiuso, non mi dare altro. Sono stato un attimo in un bar lì in via, cioè guarda quello, questo padre di un amico, no? L'ha chiamato, l'ha detto qua, stiamo arrivando, ma ha detto che ci va bene. E cosa volete? Due pronunci di chiusa. Vabbè, eh? Andiamo lì? No, pronunci di chiusa non ne abbiamo. Abbiamo Heineken, no, una bevuta, là. Cosa abbiamo fatto? Mi sono fatto una bottiglia grande, ci abbiamo bevuto quella. Tu lo sai di che marca era il vero peroncino? Il vero peroncino? Peroni? Boh, quindi quello lì come si chiama, quello epinoso? Quello come si chiama? Peroncino? Epinosino. E a te piace la birra? Sai, l'ha già detto, l'ho chiamato, ma è bello lì. No, di buoni, di buoni. Ma tu, quasi tu, non digerisci bene, secondo me. Noi digeri con più ferro, no? Io avevamo panino, gius, cipolle e ketchup, mamma mia. Non mangiavi, guarda, anche 10. Io non mangiati troppi, perché... Vabbè che tu quanti anni hai, appunto? Scusa, sono persona, prego. Quanti anni hai? Quanti anni ho? Fa capo, quanti anni hai? Sono 2,74. Sono in conto. Quando c'è poco da fare, hai 2 anni meno di me. Allora complimenti, perché io ho iniziato a non digerire queste cose già 5-6 anni fa. Guarda, l'unica cosa che non digerisco è, lo dico subito, il... scusate, lo dico senza L. Vabbè, la... non mi piace un sacco, con due olive. Il cavolo su fugato, Lo amo. Che le olive le devi, gli devi togliere il noccio, non te le devi ingoiare, capito? No, scherzi, no. Mi va sullo stomaco. Il giorno che ti trovo in verticale ti cuno una di Zeus e Olu. Ma non ti rendi neanche conto da dove ti arrivano gli schiaffoni. Ma perché non mi conosci, capito? Tu visivamente non sai chi sono, tu non sai chi è il Grode. Però il Grode sa chi sei tu. Figlio Marco, cosa sei tu? Infatti arrivo dal basso. Dal basso picchi, no, che altro invece? Tipo, sono 1,72, 1,73. Quindi la testata parte dal basso, ti prende al mento. 1,76, qua circa. Ciao fisico, sono pienotto, non... Sto bene, non posso lamentare. Cioè, se mi date di più non mi piace. Ma fisico sto bene, confronta prima. Mi sento bene, eccolo qua. Cos'è il consiglio di Giaffi? Ma ti sei un po' mi viene adesso, no? Io? Ti stava bene. Claudio, se la volta non mi vedi. Sì, no, questo inverno. Attenzione, ho solo che tiro in più, qua. Ho preso 76, 75 kg vestito, adesso ne ho preso 75 mutande. Ehi, sei qui per me allora, ho preso 80 io. La birra clara per il gruppo. No, la birra è chiusa. Quando devo prendere in giro, ma è così, no. Non c'è un'altra birra, ecco, non riesco a berla. Ma io 10 kg li ho persi. 10 kg, ma lo questi mi stanno uccidendo, a me ne invece le birra rosse tutte e due. Una cosa, ma è vero che ne chiudi un bel Luca? Un bel, ho già finito qua. Scemo, guarda. Non ho una parola. già lo sai, io sono amico, già lo sai che scherzo, no? Caso già mi riprendi tu, mio Opla. Io con Luca no, siamo troppo amici, primo in quattro. Quattro male ti picchiamo. Ascolta, io posso chiamare un amico piccolo, piccolo, piccolo? Chiama chi vuoi, io sono sempre con Luca, non mi interessa. Visto quell'amico piccolo vecchio, ma scommetti che ne caccia il macchine a te e a lui? Ma hai visto il mio amico, quello piccolo vecchio? Quello che fa ballare la samba a te. Lo tango. Tu la samba e io il tango. Ma quelli non si usano mai. Quelli si usano solo per andare a chiedere i soldi in banca. Allora, aspetta, a me lui piace fare radio usi. Se così, vabbè, ci posso anche rimanere. Ma se almeno un poco di casino, mi ritiro. E adesso sappiamo la tua idea quale di radio. Io sono contento e te la appoggio. Magari a Dinandi. Non lo sa Claudio, lo sa. Anche a me piace fare il casino, ma poi se a un certo punto poi vuole che si scoccia e niente, dai. Tutto qua, oh qua ci schiuma, dai, mi sono svegliato e un attimino, mi assento. E perché anche me faccio volentieri, dai. Patrizia, prego, lei il microfono. Ti ringrazio molto gentile, volevo salutare, volevo darvi la buonanotte perché adesso vado a nanna perché ormai le mie gambe non reggono, quindi vi saluto a voi signori della ruota con tanta gentilezza, saluto Policina, saluto le vostre signore, saluto Luca e vi auguro una buonanotte e a sentirci domani. Buonanotte. Ma non vuole essere una battuta, ma io ho visto che avete due comode sedie, hanno una bellissima sala radio, con due comode sedie, cioè sei seduta? Sono seduta, sì, ma sono tutto il giorno in piedi che facevo le pulizie, quindi tra pulire e fare un po' mi sono stancata, quindi le mie gambe sono diventate due botticioni. Roger, comunque a parte gli scherzi, un po' di massoterapia farebbe bene. La faccio, ma non ho, in questi giorni non ho concluso proprio niente, non ho concluso niente, mi è sempre gonfi sono, non si vogliono sgonfiare. Lo so, ma quello lì è il caldo comunque, è normale, io lo stesso ero a Cagliari oggi e stanotte proprio si schiumava, credo di aver lasciato la sacra sindone nelle lenzuola e talmente più sudato. Ma proprio da quest'anno in più me lo sta facendo, non riesco più neanche a mettere le scarpe, non riesco più neanche a farle sgonfiare. L'anno scorso no, non erano così, da quest'anno che si stanno proprio dalle ginocchia in giù, che diventano proprio enormi, giganti, da non poterle portare proprio. Un po' di circolazione, si potrebbe provare, vabbè, ma poi ne parliamo a quattro occhi, dai, però si potrebbe provare con quelle calze elastiche che riattivano un po'. Posso portare purtroppo. Va bene, dai, ne parliamo un altro momento. Dottor Claudio, venga avanti. Così mi piace, rimani altri 5 minuti, Patrizia. Guardi, 5 minuti contate proprio perché devo fare compagnia a lei, perché il signor Claudio è fuggito, è andato in bianco. E le faccio 5. Mi dica 5 minuti qualcosa che da lei, dai, intanto per sollevare un po' la serata oggi. Mi dica qualcosa di interessante, cosa ha fatto oggi? Qualcosa di simpatico l'ha già detto lei, cioè dicendo che il signor Claudio non sta facendo bianco, ma è andato in bianco. Capito? Oggi sono, o meglio, siamo andati insieme a Policina a Charlie Alpha per fare il tagliando alla fragola machine. Ah sì, è una macchina che il mio colore è molto amante delle... Ho capito, sì, la macchinetta famosa. Baroggero. E niente, quindi ci siamo fatti lei una... 2 ore di macchina, poi abbiamo un attimino deviato perché avevamo acquistato una cosa e siamo andati a ritirarla in un paese vicino a Cagliari, quindi abbiamo un attimino deviato e si è fatta 3 ore di macchina. e io ho 3 ore di spaventi perché stava guidando, che per carità la metà bastava. Ma guidando pollicina? Ma è oggi, avete la fiducia che diedo a questa donna. Ui. Secondo me non fa bene, guarda che noi donne stanno, io non ho la patente, non so come si dire, quindi non, però le donne al volante, il detto dice, le donne al volante pericolano all'istante, però dai, non esageriamo, noi donne siamo molto attenti al volante. Patrizia, ricordati quello che ti ho detto, tu devi fare, quando senti parlare il signor Grotte, tu devi fare come si faceva una volta per la conversione da lira a euro, devi togliere 3 zeri e dividere per 2. Sì, ma io sono gli scherzi, sai, dobbiamo d'accordo, non tanto anche tu, se devi lasciare andare un po' la corda, perché se poi la tiri non viene un po' il gioco, no? Sì, ma infatti ti ho detto, tu quando senti parlare lui, fai le dovute divisioni e proporzioni e quello che ti avanza, prendilo con le pinze di quello che dice lui. E cosa avanza? Nulla. Hai capito? Signora, adesso lo sto offendendo, scusami, perdonami, non voglio offenderti, ma è la regola di noi donne. Delle donne, ma io credo che lei non abbia né l'intenzione né possa riuscire ad offendermi. Come fa una con una voce così soave ad offendermi, assolutamente? Guardi, lei mi sta comprando a me. Una donna come lei non abbia prezzo. Io non ho prezzo logicamente, no, però tu non mi compri a me, anche se ho la voce soave. Guarda, questi 5 minuti mi devi dire qualcosa di interessante, dai, continuo, poi come è andata a finire la giornata? I 3 minuti, 5 minuti, come lo fai? Ora conobis. Niente, siamo stati. Obiettivamente non vedevo l'ora di scappare, dopodiché a metà del cammin di nostra vita incontrai suo padrino e ho fatto un piccolo QSO sulla 131 col grande Gigino Vulcano e dopodiché niente, siamo rientrati morbidamente a casa. Ecco, vedi, a casa ci sei arrivato guidando sempre pollicina. Quindi anche oggi facciamo una pregherina. Tutto qua l'ho sentito il prete, infatti ti ha detto qualcosa di... Io risposto amen. Ora pro nobis. Amen. Allora io domani mi servirei, perché mi servirei. Va bene, va bene. Non so che dire, non so che fare. Quindi... che ora sono? 11:10, la cipicchia. Va bene. Non capisco questa tua affermazione nel guidare. Che ti ho visto guidare. Sei proprio messo male tu guidando, quindi non capisco come mai ti permetti di criticare a Policino. Quelli vi accorda anche lei, perché poi è peggio. Sì, ma come non si gira, perché in droga non si può girare allo spardiero. Lo spardiero vola alto, quindi lui, stando per terra, controlla solo il movimento delle pecore e delle galline. E io contro di lei mi giro e come? Mi giro dall'altra parte e corro. Ma sai che ogni volta che vedo una volpe per terra, dove vado io nella strada, nelle strade che percorro io, purtroppo, tutte le volte ti penso. Ah, tu immaginati cosa pensa quella volpe che è viva e crede che tu sia, che sa che tu credi che è morta. Di una stavo avvicinando con mio collega per tagliare la coda, si è girata e se n'è andata. Via la coda della volpe, lasciala in faccia del volpe. Voleva fare un souvenir lui. Ui, la volpe, detta anche il zorro, detta anche il mattone, detta anche il... Volpe, grode. Chiama l'altro, zorro, tra noi, sardo, com'era il... Ah, di muro. No, su... Non so, non me ne intendo io. Marziano. Aspetta un attimo, viene avanti di nuovo. Chi era? Vittorio. Marziano. Ecco, sei un po' saturo, perché? Chiaramente meglio, ma sei sempre, sembra come stasera un attimino che hai dato un colpo alla cosa, era un po' fuori frequenza. Prova un attimino. Sono fuori, aspetta. Sono uscito. Opla, aspetta. Avevo preso a calci il buono. Va bene, va bene. Ciao Vittorio, buonasera. Va bene, dai, continuate voi perché io mi stavo lontano. Quindi. La più cordiale buonanotte a tutti, ciao Patrizia, saluta Antonello Romani, ciao il Grobbe, saluta Policina, ciao anche a Luca, ciao a Vittorio, saluti a casa, me ne vado a nanna, dai, sennò rischio che non vi rispondo più, faccio la fine di qualcuno, che quando lo chiami non risponde mai. Ci sentiamo, buonanotte a tutti e a domani se coincide, ciao. Buonanotte da parte mia e buonanotte, anch'io do la buonanotte al signor Grobbe e ci sentiamo domani. Buonanotte a tutti e buonanotte Policina, dormi bene sempre. Buonanotte anche a te Patrizia, colgo l'occasione per salutare anche Claudio che è andato a dormire, ho sentito anche Vittorio, ben sentito anche a lui. Buonanotte a tutti e arrivederci. Vittorio Giove, ciao. Ci lasci così Vittorio. Ci abbiamo 2M in una serata e ci lasciate così. La mattina bisogna alzarsi presto, no, ma io sto adesso con il ferro in mano sino alle 2:30, prima non vado a letto. Va bene, vi stavo ascoltando, ho sentito appunto su Margiani, oltre a Mazzone, Grodde e via dicendo. È vero, Marciani era quello che cercavo di ricordarmi. Quindi stai smaltendo un po' di lavoro di quello per cui mi hai messo in fila. Sì, ancora molta roba non è arrivata, eccetera. Sto già sistemando questo che l'ha portato prima di te e sto preparando il tutto, che gli ordinati transistor dovrebbero essere arrivati del PLL. Spero questi giorni da contattare anche a te. Caffa, io sono Antonio Grodde, non mi confondere con Antonello Barracuda che te l'ha già portato, a me mi hai messo in fila per portartelo ancora, ed era il 140. Caffa, no, questo che sto vedendo, questo che sto usando è un 440. Caffa, in previsione anche del fatto che debba diventare... spero di diventare, tra l'altro poi utilizzato, mi ha proposto appunto dei libri che lui ha già doppi, quindi te li porterò e ti faccio vedere un attimino, mi dirai se vanno bene. E io sto cercando uno di quegli apparati lì, perché ha tutta una serie di cose che il 140 non ha, non ha ad esempio l'accordatore e altre cose. Sì, per queste cose ci si sente di persona, già avremo modo di vedere, sentire e valutare. Non chiede, dai. Non ti disturbo oltre. Mi hai sentito, mi hanno ascoltato 7351 e con quelli se sei in ascolto. Ok, ciao, grazie. 144 è buon QRT anche allo Sparviero, l'ho lasciato per ultimo ma non ultimo assolutamente. Ciao Claudio e ci sentiamo spero domani, se vuoi fai uno squillo e ci prendiamo anche un aperitivo. Per la signorina Raggio di Sole non ci sono parole, è sempre un piacere interloquire con lei, buon 144, dia coraggio al ragazzo, che lo vedo un po' giù ma non c'è problema. Lo metteremo di nuovo in sesta assolutamente con buone notizie. Luca, ci sei rimasto tu? Il silenzio a radio perché uno sa di essere padrone del canale. Ciao Grodde, buonanotte e grazie, mi è fatto piacere sentirti e alle prossime. La tua voce è sempre qualcosa di bello alla radio, illumina la 27 la tua voce. La ringrazio per questo, ma lei deve sapere invece che ha una bellissima voce da speaker radiofonico. Glielo devo dire, signorina. non sarebbe male che lei facesse un'audizione per la radio, per la radio intesa come broadcasting. Grazie per il finalino, QRTina che da parte mia, ci sentiamo domani, ciao ciao, e saluto anche gli eventuali ascoltoni e le persone che sono in QRT, ciao ciao.